Ma la nostra rabbia al lavoro, a scuola, in famiglia, nelle nostre città. Per un mondo senza patriarcato, razzismo, classismo e guerre abbiamo uno strumento: sciopero da ogni tipo di lavoro e dai generi. Sul sito www.nonunadimeno.wordpress.com puoi trovare l'appello allo sciopero e tutte le informazioni necessarie per scioperare. Insieme possiamo tutto. E allora, eccoci, benvenute a tutte e tutti e tutto, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Questa è Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima e questa qui è la nostra fantastica puntata collettiva. In questo momento di complessità mondiale, in questo spazio di inizio secolo sempre più complicato, sempre più sulla crepa del mondo che dicevamo due settimane fa, tra crisi di guerra, conflitti, incapacità dell'uomo di risolvere le controversie se non sparandosi a vicenda. Questa qui è la posizione pacifista attaccata da tutte le parti, perché bisogna fare guerra fondai da salotto a tutti i costi in televisione. Siamo costretti ancora una volta a sentire, mentre vediamo che gente muore sotto le bombe, a sentire da una parte, dall'altra, non ci interessa, a sentire ancora gli esperti militari in televisione, i direttori di riviste militari, i vari strateghi che ci propinano le loro considerazioni dalla televisione per chi la continua a vedere, chi prova a dire una cosa diversa che non sia necessariamente ma semplicemente che forse a un certo punto l'uomo del Novecento avrebbe potuto, soprattutto in un contesto culturale come quello europeo, dicevamo poco fa io e il comandante Jacopo, che comunque oltre a dominare il mondo con il 20% delle persone si ciucciano tutte le risorse di tutto il mondo, anche senza dubbio è stata la culla della civiltà e della cultura in cui siamo immersi, anche ai costi umani e di dominazione che ha subito, non riesce ad oggi ancora a risolvere un conflitto senza uccidersi vicendevolmente. Le immagini che arrivano soprattutto dalla popolazione, che è l'unica che personalmente di cui ho interesse personalmente, sono terribili: gente spaventata, distrutta, morta e proprio davanti alla crepa del mondo, a cui si aggiunge nel caso della nostra trasmissione anche tutte le varie altre problematiche. Abbiamo parlato di conflitti ed energia, conflitti e riscaldamento globale. In questi periodi cerchiamo di tenere insieme tutti i fili, diventa sempre più complicato occuparsi solo di scienza, occuparsi solo di clima, occuparsi solo di qualcosa che non sia correlato a tutto quanto. Forse davvero stiamo su un orlo che è inevitabile pure che finisca in qualche conflitto. In tutto questo, anche oggi cerchiamo di orientarci, abbiamo due telefonate esterne. Adesso do la parola al comandante Jacopo, poi sentiremo quello che succede in qualche modo in un altro tentativo di contrasto dal basso, dall'occupazione di cui si è già parlato abbondantemente alla radio, ma cerchiamo di capirne altri tratti, no? Con le nostre cifre distintive della trasmissione, l'occupazione alla Caffarella, e poi siamo tutti qua, quindi abbiamo tutti i protagonisti, che piano piano di entropia massima. Oggi è proprio una festa, stiamo tutti qua vicini tutti mascherinati, però stiamo vicini e ci vogliamo tanto bene. Quindi nel seguito, con il disordine sempre dovuto all'incapacità tecnica che ci contraddistingue, no? Continueremo a parlare intanto e ad affrontare tutti i vari temi. Intanto lascio subito la parola al nostro comandante Jacopo, che ci introduce il nostro ospite, che questo, dopo un po' di puntate, sta diventando quasi uno dei nostri riferimenti per la lettura della realtà, no? Ah beh, certo, buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto, mi sentite? Sì, si sente bene? Ecco, allora, grazie Lorenzo. Noi siamo costretti, volevamo parlare, avremmo voluto parlare molto di più di scienza, ma insomma qui l'attualità ci costringe comunque a buttarci a capofitto sulle problematiche e sulle tragedie che stanno avvenendo in questo momento. Per fortuna che abbiamo comunque contatti e conoscenze che ci aiutano in questo, perché noi non è che siamo omniscienti, quindi ovviamente facciamo riferimento spesso a gente che ne sa più di noi in altri campi. Ovviamente in questo caso ci si riferisce sempre agli aspetti economici, geopolitici, parlando appunto di abbiamo parlato di transizione energetica, di tutto quello che concerne appunto la transizione energetica, il cambiamento climatico. E in questo momento a noi ci pare che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, il PNRR, tutto quello che si deve fare per combattere il cambiamento climatico, ecco, rispetto a una situazione di emergenza come adesso, tutto ciò si sta facendo, come dire, si va a farsi benedire. La sensazione è questa, che ci troviamo di fronte a una grande speculazione rispetto a quello che sta avvenendo, cioè alla guerra in Ucraina. Si innestano, diciamo, dinamiche da un punto di vista, diciamo, per l'approvvigionamento energetico, grandi speculazioni a livello internazionale, e ciò lo dimostra il fatto di come sta arrivando alle stelle il carburante. Proprio oggi abbiamo assistito, ecco, alle prime mobilitazioni. Ovviamente i pescherecci di Fiumicino sono fermi da un bel po' di tempo per protesta, stanno scioperando gli autotrasportatori. Ovviamente è una situazione inaffrontabile questa qui, che genererà a catena un grandissimo rincaro e una diminuzione del potere d'acquisto di tutti i salari di tutti i lavoratori, per quello che riguarda, voglio dire, le condizioni di diritti e le condizioni minime di sussistenza. Ci troviamo di fronte, secondo noi, a una grande speculazione che non è neanche troppo correlata appunto alla questione che Putin alle sanzioni che stanno avvenendo nei confronti della Russia, e tantomeno a quello che la Russia sta facendo nei confronti dell'Europa rispetto alla crisi ucraina. Lo chiediamo questo, vogliamo fare subito il punto su questo, cioè chiedere al nostro esperto, che voi già ormai conoscete, perché sono già diverse volte che è venuto qui in trasmissione ed è stato molto gentile pure oggi, perché è stato lunedì scorso, e pure oggi gli ho chiesto se poteva darci lumi anche brevi da questo punto di vista. Vi presento nuovamente il nostro ospite, che è Demosthenes Floros, che è un analista geopolitico e responsabile energia del Centro Europa Ricerche. Di queste cose ovviamente in questi giorni è richiesto da tantissime parti, perché appunto gli chiedono in merito a tutte le questioni, dal gas al petrolio alle questioni geopolitiche, e anche noi vorremmo chiedergli appunto fargli delle domande proprio di attualità sulle questioni più ingerenti. Demostenes, mi senti? Pronto? Ci sei, Demos? Porca miseria, com'è che non c'è? Mi dice che è caduta la linea. Riproviamo un momento, scusate, è caduta la linea, forse perché avevo chiamato sul cellulare. Vai, non gli... E allora niente, mandiamo la musica a questo punto, un suggerimento, così intanto recuperiamo il collegamento. Vai. Too many men, lost in the armies of oblivion, missing the tenderness of Mother Nature's hand. What about the wingmen? Too many men, placed with a gun in each and every continent, killing each other till we're facing monuments. What about the wingmen? Our freedom fighters, seekers of the light, despair no more the moment has arrived to turn all hell into a paradise through love and recreation. Eccoci. Releasing every woman, man and child to self-realization. So think alone and let yourself decide for who you are, hold up your head and pride. Release your fear and let your power shine. Open up your eyes. Too many men, lost in the armies of oblivion. Buonasera. E questa canzone mi è stata consigliata dalla mia amica Luciana Perkovic, femminista degli anni 70 e grande esperta di storia e di archeologia, e quindi stasera la proponiamo e sono molto contenta che è in radio questa canzone. Ma se potete guardate anche il video perché è veramente bello. E sì, dai, si chiama What About Woman di Yael Dinkelbaum. Ok, e adesso ritorniamo al contatto. Demos, scusate, eccomi per qua. Il problema tecnico, ci senti adesso? Sì, vi sento, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ecco, abbiamo avuto problemi di linea, eccomi qua. Allora, guarda. Innanzitutto ti ringraziamo per essere tornato un'altra volta e per averti rubato del tempo. Grazie a voi per l'invito. Allora, una cosa che partiamo da un'affermazione, tu dimmi se è vera. Sì. Ed è la seguente. Adesso, diciamo, in questi giorni, il prezzo del petrolio è circa $139-140 al barile, giusto? Sì, è calato nelle ultime ore, a dire la verità, è calato in maniera piuttosto significativa, ma siamo sopra i $100 ampiamente. Ecco, e quindi sappiamo quanto è arrivato il prezzo. Io ho fatto benzina adesso, sto a 2,2-2,3 la super. Nel 2008, sì. Ecco un dato, il prezzo del petrolio era tipo a $150-147 al barile e pagavamo €1,30. Allora, qualcosa non ci quadra. E in tutto ciò ci devi spiegare come è correlato l'aumento del petrolio, dei prezzi, cioè alla fine proprio al consumo, quello che noi andiamo a pagare, con questa crisi. Cosa c'entra, dove sta, dov'è l'inghippo, dove possiamo rintracciare la grande speculazione che c'è dietro questo innalzamento dei prezzi? Allora, in primo luogo cerchiamo di ragionare sulla materia prima. Prima, quindi ragioniamo sul prezzo del barile, no? Qui bisogna chiarire un aspetto, perché negli ultimissimi giorni, diciamo da quando si è allargato il conflitto in Ucraina, spesso e volentieri nei nostri mezzi di informazione si sostiene che sono aumentati i prezzi delle materie prime, in particolar modo delle fossili e della benzina. Ora, questo è vero, ma in maniera parziale, cioè i prezzi non sono aumentati da marzo 2021, ma i prezzi delle fonti fossili, in particolar modo del gas naturale, che noi utilizziamo anche nell'autotrazione, sono aumentati in maniera molto significativa da marzo 2021. quindi prima del diciamo così, dell'allargamento del conflitto attorno al 23-24 febbraio del 2022. E su questi aumenti dei prezzi, che per il gas naturale ha significato un più 400% nel mercato regionale europeo del gas naturale, mentre il petrolio era arrivato vicino ai, a oltrepassare i $90 al barile, se ne è parlato poco e si è riflettuto poco, a mio ragione, per dei motivi che hanno a che fare con questioni di responsabilità attribuibili all'Unione Europea per quanto attiene al gas naturale e per altre questioni geopolitiche. È evidente che nel momento in cui il conflitto si è allargato nella drammaticità con la quale voi lo descrivevate correttamente in precedenza, il prezzo della materia prima, del greggio, ha inglobato cosiddetto rischio appunto geopolitico dato dal conflitto in essere, e questo ha determinato subito un ulteriore aumento di prezzi che erano già vicini ai $100 al barile. Dopodiché noi abbiamo avuto un sali e scendi della materia prima che è schizzata nuovamente verso l'alto quando gli Stati Uniti d'America hanno posto delle sanzioni e il bando delle esportazioni del greggio russo, e hanno chiesto anche ai paesi europei di fare altrettanto. Fortunatamente i paesi europei si sono perlomeno al momento opposti, e su questo casomai possiamo tornare successivamente affinché spieghi che cosa vuol dire fortunatamente. Ecco, in tutta questa situazione, e qui vado alla questione della benzina, no? Quando andiamo a fare rifornimento ad esempio, che cosa succede? Succede che quando abbiamo questi aumenti del prezzo del barile, immediatamente il prezzo alla pompa viene aggiornato, viene adeguato velocissimamente. Quando invece abbiamo avuto dei cali, come quelli che ad esempio hanno riguardato le ultime 24 ore, perché il prezzo, guardavo prima, era attorno ai $103-105, quindi notevolmente inferiore di una trentina di dollari rispetto ai giorni precedenti, ebbene noi vediamo che questo adeguamento verso il basso non avviene, oppure quando avviene, avviene con una grande lentezza, ed è evidente che in questi frangenti si ha uno spostamento delle ricchezze dalle tasche di qualcuno alle tasche di qualcun altro, che prima tu hai definito con il termine appunto speculazione. Bisogna però precisare una cosa, almeno per quanto attiene il prezzo della benzina in Italia, e cioè che il 60% circa di esso è determinato dalle accise, quindi il prezzo della materia prima in quanto tale è minoritario. Questo bisogna specificarlo, perché è chiaro che ogni paese ha una tassazione a sé, anche se l'Italia è uno dei paesi in Europa, credo insieme alla Grecia, ad avere i prezzi della benzina più alta, tutte le conseguenze del caso, ad esempio gli scioperi dei lavoratori della pesca, insomma i pescherecci che in questi giorni sono fermi, perché ovviamente uscire ha dei costi per loro proibitivi. Pronto? Mi senti? Mi sentite? Sì, certo, ci siamo. Ecco. Jacopo, lo sento lontanissimo. Come mi senti? Adesso ti sento bene. Ah, grazie. Io mi chiedevo questo. In una situazione simile, già iniziano, è una riflessione questa su cui secondo me bisogna stare attenti a discernere tra quello che è effettivamente il risparmio energetico che serve per combattere il cambiamento climatico, per attuare una transizione energetica degna di questo nome, e ciò che invece viene utilizzato strumentalmente, perché adesso dicono: ah, i prezzi sono alzati, costa tutto di più, le materie prime, il petrolio, il gas, eccetera eccetera, e il governo incomincia a dire bisogna risparmiare, quindi abbassare di 2 gradi la temperatura dei condomini, incrementare, ecco, che in linea di massima, in senso assoluto, questo è giusto, però mi sembra un taglio con l'accetta orizzontale, per cui semplicemente sempre la solita questione che si fa pagare la crisi sempre ai lavoratori, da questo punto di vista, che non è un vero, diciamo, una vera lotta al cambiamento climatico, perché la vera lotta, secondo me, a mio avviso, sarebbe che si risparmia, ma quei soldi risparmiati vanno per combattere effettivamente il cambiamento climatico in termini di sviluppo di nuove tecnologie, eccetera eccetera. In questo caso mi sembra sempre la solita storia. Io temo che sia ancora più grave la cosa, cioè noi siamo passati in 10 giorni da Draghi che parlava di transizione energetica a Draghi che, quando gli hanno spiegato qual è il nostro rapporto, nostro dell'Italia e dell'Europa, con la Federazione Russa in termini di energia, che ha cominciato a parlare di riaccendere le centrali a carbone. Per la verità qualcuna che funziona ancora a carbone l'abbiamo. E questo dà il senso della difficoltà, e utilizzo un eufemismo, dovrei forse parlare di terrore vero e proprio, delle nostre classi dirigenti che in pochissimi giorni sono passate appunto a discutere di transizione energetica in maniera del tutto inadeguata, a effettivamente non sapere come affrontare la situazione di crisi attuale, che ovviamente peserà in maniera drammatica, a mio avviso, sull'economia del nostro paese, visto che le sanzioni che sono state implementate stanno avendo degli effetti durissimi. Io ripeto un dato che a mio avviso chiarisce a che cosa stiamo andando incontro. Noi, con i prezzi del gas naturale del 2021, quindi faccio riferimento al periodo che precede, no, il conflitto su larga scala in Ucraina e le sanzioni, ebbene il 60% della manifattura tedesca, quei prezzi del gas naturale, rischiava di saltare. Questa percentuale si alza, arriva al 70% per quanto attiene la manifattura italiana. E questo, ripeto, in relazione a quanto era successo nel 2021, figuratevi voi con quello che sta succedendo in questi giorni, dove addirittura abbiamo avuto dei picchi del gas naturale a 345 euro per megawattora, circa 4.000 dollari per 1.000 metri cubi. Noi 1.000 metri cubi alla fine del decennio trascorso, 2018-2019, li pagavamo 200 dollari dalla Gazprom. Ecco, questo per avere un senso della proporzione dei prezzi. Quindi la verità è che chi guida questo paese non sa come affrontare la questione energetica, visto quanto sta accadendo nel contesto internazionale in questi giorni. E veramente noi andiamo incontro ad una situazione economica e sociale che io vedo molto molto dura, anche perché non dimentichiamoci mai che per produrre gli alimenti noi abbiamo ovviamente bisogno di fertilizzanti, e i fertilizzanti si producono con il gas naturale, per cui abbiamo già avuto e avremo sempre più nei mesi a venire un aumento significativo del prezzo dei beni base, dei beni appunto che a tavola utilizzano la maggior parte delle famiglie. E questa è una situazione che non ha assolutamente nulla a che fare con la transizione energetica. Mi ha colpito anche un altro aspetto di cui ha, diciamo così, indirettamente parlato il Sole 24 Ore. Noi da qualche anno in Unione Europea abbiamo il cosiddetto European Trading System, cioè le imprese che producono energia e che ovviamente utilizzano combustibili fossili devono acquistare dei titoli, visto che emettono CO2. E questi titoli, che ovviamente sono stati soggetti alla speculazione, nel 2021 sono cresciuti di prezzo e sono cresciuti in maniera esponenziale anche nelle ultime settimane. È una delle strategie europee per arrivare al 2050 all'azzeramento delle emissioni, secondo la logica del chi inquina paga. Ebbene, in Europa si sta discutendo anche la possibilità di metterlo da parte per un periodo indeterminato. Quindi questo vuol dire che noi fino a una settimana fa parlavamo di appunto transizione energetica, e adesso il tema della transizione energetica nei fatti è stato messo da parte, e quindi i riferimenti, appunto prima parlavi dei 18 gradi centigradi e via dicendo. Quello che dicevi, quello che dice, scusa ti interrompo Demos, ma la temperatura di quello che dicevi, che non sanno più che pesci pigliare il governo, addirittura volevo ricordare, Davide me lo stava ricordando adesso, effettivamente Draghi se ne esce d'amblè dicendo che nel 2028 sarà pronto il primo reattore a fusione, cosa che non sta né in cielo né in terra, è una è una stupidaggine di prima categoria, assurda, perché non esiste un reattore, non esisterà fino al 2050 se tutto va bene nell'ampio delle ipotesi. Ma un'altra stupidaggine di questi giorni, purtroppo, perché io non è che sia pregiudizialmente contraria, è anche quella sull'idrogeno verde, che avevamo ipotizzato entro il 2030, e che invece oramai tutti quanti non vedono più possibile entro il 2030 per un altro motivo molto semplice, e cioè per l'aumento del prezzo, aumento esponenziale dei prezzi dei materiali di base, cioè di tutti quegli elementi che ci servono per la transizione energetica, per produrre appunto i pannelli solari ad esempio, oppure per il sistema di elettrolisi, e l'aumento dei materiali di base necessario ha raggiunto un costo tale per cui noi non abbiamo una diminuzione del costo dell'idrogeno verde, che comunque era di 3-5 volte superiore a quello cosiddetto blu, cioè prodotto dal gas naturale. Si è avuta un'inversione di tendenza dovuta appunto all'incremento di prezzo dei materiali di base, per cui anche la prospettiva dell'idrogeno verde entro il 2030 viene meno. E questo che cosa determinerà? Un'ulteriore domanda delle fonti fossili. Per cui noi ci troviamo veramente in un momento molto molto difficile che i nostri politici non sanno gestire, ma la verità è che noi abbiamo un'analisi insufficiente sulle cause dell'aumento di prezzo del 2021, un stand-by della transizione energetica, e utilizzo un eufemismo, e dinanzi a noi i prezzi delle fossili che aumentano in maniera esponenziale. Non dimentichiamoci che l'Europa utilizza ancora nel proprio paniere energetico il carbone per il 10-12%. Ebbene, il prezzo del carbone sta raggiungendo i $500 per tonnellata. Era attorno ai 180 fino a qualche settimana fa. E questa è la situazione che abbiamo di fronte, e francamente è molto molto grave. È gravissima, certo. Ti voglio fare un'ultima domanda, che è più una curiosità, perché sempre rispetto all'aumento della benzina. Tu hai parlato, va bene, noi abbiamo il 60% che influisce sul prezzo di accise e il 40% sulla materia prima, ma l'innalzamento sulla, appunto a questo punto mi pare, bloccando le accise, l'innalzamento sulla materia prima, in tutta questa catena, noi ci chiedevamo chi è che cioè in tutta questa catena di distribuzione, chi è che specula maggiormente, cioè per intenderci lo sceicco, oppure quello che raffina il petrolio in Italia, il signor, che ne so, Eni, ma come tanti altri. Cioè, dov'è che c'è la maggiore speculazione, il gap? Dov'è che avviene questo grande gap rispetto all'innalzamento delle materie prime, rispetto al prezzo poi finale? Beh, io credo che ci sia su tutti i segmenti, poi può variare da contesto a contesto. Facciamo un esempio. Per trasportare un barile di petrolio dalla Libia all'Italia, sapete quanto ci costava fino a qualche anno fa? Almeno fino a quando non abbiamo deciso di distruggere la Libia per i nostri interessi strategici, immagino, quanto costava, pagavamo per importare un barile di petrolio? $8 tra la produzione della materia prima e compresa il trasporto. Dopodiché ci sono tutti i vari passaggi successivi fino ad arrivare al prezzo alla pompa. Quindi insomma, fate voi un po' un calcolo, è evidente che anche a livello del segmento della distribuzione c'è una grandissima speculazione, e questo lo vediamo tantissimo anche per quanto attiene il gas naturale, quindi il riscaldamento. Anche lì abbiamo una grandissima speculazione Io ad esempio vi parlo da Bologna e qui abbiamo ERA. Quando io vado a parlare con chi acquista il gas naturale da ERA e ad esempio lo vende per l'autotrazione, mi dice che la speculazione che subisce da ERA, che è una delle utilities più importanti, anzi la più importante nella mia regione, mi dice che la speculazione che fa ERA, quindi il prezzo del gas naturale che viene venduto a chi poi rifornisce colui che ha la macchina a metano, è molto molto alto. E quindi noi abbiamo una speculazione in tutti i segmenti, ma credo che ultimamente molta si stia facendo nel versante finale della distribuzione. Va bene, caro Demostenes, io sei stato sempre gentilissimo e utilissimo, abbiamo capito molte cose, oddio, è abbastanza pesante insomma tutto ciò. Comunque. Sì, la situazione non è facile, bisogna essere oggettivi, è molto pesante, sì, c'è da essere preoccupati, devo essere sincera. Va bene, noi ci risentiremo presto perché non finisce qui, e se tu vuoi vorrai venire sei sempre il benvenuto. Grazie a voi. Ti ricordo che Demostenes Floros è Senior Energy Economist del Centro Europa Ricerche, l'abbiamo presentato tante volte, e ricordo Guerra e Pace dell'Energia, il suo libro molto utile, edizioni di Acos. Grazie mille. Ciao Demostenes, grazie. Ciao. A voi, buona serata. Bestemmie scritte sui muri, madri ansiose con figlie in prigione al computer, dentro camera loro. Non c'è stato mai niente di qui fra di noi, io ero un po' troppo comodo in quanto astronascente, astronascente di quattro poveri stronzi. Il mondo, solo etero furbi col banjo, mal di testa e stanze di gente che esce troppo poco di casa. Non c'è stato mai niente di qui fra di noi, io sapevo soltanto che eri la reginetta di Tumblr, reginetta di quattro poveri. Ma non c'è niente di quella. E allora, dopo questa musica giovane, torniamo in voce. Qui abbiamo il nuovo, l'altra ospite che ci parla direttamente dal. Pronto, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Simo, come stai? Bene. Come sta andando? Tra i pini della Caffarella, questa meraviglia di via della Caffarelletta, di cui già se ne è parlato sicuramente in radio, sarete intervenuti 700 volte. Quindi senza ripetere le stesse cose, però al tuo immenso buon cuore, parlaci della laboratoria. Noi stiamo tanto, no? Non so se ci senti, sei sicuramente un'ascoltatrice oltre che una ex protagonista di Entropia Massima, quindi stiamo tanto parlando di riscaldamento globale, di lotta ecologica, di approccio comunque anche di che fare e come farlo rispetto a questo. La laboratoria risponde a una di queste domande in parte, e quindi prego, vai, che state a dire in assemblea? Che giustamente mantenete le assemblee del lunedì, che è proprio un altro standard. No, veramente no, no, no, in realtà no, non manteniamo niente. Quella di stasera praticamente è la prima assemblea così un po' ragionata che riusciamo a fare, perché per le altre sono state molto dense ma anche molto emergenziali, quindi all'ordine dell'assemblea di stasera c'è anche decidere quando e come articolare le prossime assemblee, soprattutto per con lo sforzo di tenere dentro e sviluppare i temi che sono alla base di questa, di questo esperimento, di questa laboratoria, e non farci invece, come a volte purtroppo avviene, risucchiare dalla quotidianità e dalle questioni più legate alla gestione di uno spazio, tra l'altro, come questo, che è immenso e anche abbastanza complicato da gestire. Eh sì, il rischio di parlare del generatore, noi al Cinema Palazzo avevamo questa cosa del generatore. Esattamente, però appunto mai come in questo esperimento anche il gestionale è politico, non so come dire, visto che qua si vogliono mettere in pratica e diciamo visualizzare attraverso la pratica le idee che sono alla base di questo esperimento, alla base della rete ecosistemica, che è un po' il contesto in cui è nata questa idea, anche capire come si alimenta questo spazio, come viene gestita l'acqua, come viene gestita l'elettricità, come gestiamo le risorse e anche gli stessi rifiuti, è un elemento comunque politico che ci interessa approfondire e ci interessa farlo con le altre realtà romane che sono attive su questi temi, che fanno mobilitazione, che fanno proposte e che producono conflitto. E diciamo che in questa settimana le iniziative sono state le più disparate, anche perché c'è stato un grande entusiasmo e quindi una grande voglia di organizzare iniziative in questo spazio, e anche un bisogno ovviamente di riempirlo per difenderci insomma dalle richieste di sgombero che già ci sono state. E il tema dell'energia che tu menzionavi è stato trattato in, diciamo in relazione al tema della guerra, che comunque è ovviamente un tema che si intreccia con tutti i ragionamenti, non può non intrecciarsi con tutti i ragionamenti politici che si stanno facendo in questa fase. Proprio adesso, in diretta dall'assemblea che sono uscita, si stava decidendo di dedicare le domeniche, che comunque sono giornate in cui questo spazio è attraversato da tantissima gente, la più disparata, di dedicarle proprio a ognuna ad un argomento tematico che è alla base del nostro, del documento, del manifesto con cui siamo entrati in questo posto, che è articolato in diversi aspetti appunto del nostro rapporto con l'ecologia e con la giustizia sociale, e quindi fare un po' formazione, autoformazione, ma anche proposta di mobilitazione e di conflitto, articolandolo sui vari temi che sono quelli appunto della città estrattivista e della gestione dell'energia anche rispetto agli interessi di alcune di chi fa la politica energetica in Italia, il tema della cura e del transfemminismo, provare un po' a sfruttare queste giornate, speriamo sempre più di sole e sempre più partecipate, per approfondire alcuni temi, fare formazione anche allargata a chi si vuole avvicinare a questo spazio, e poi immaginare insieme iniziative di mobilitazione e di conflitto, perché quello che non vogliamo fare è chiuderci in questo spazio, per quanto sia uno spazio aperto, ma appunto portare questi temi nella città. La Laboratoria Aperta vuole proprio, risponde proprio un po' a questo, a questa necessità di trattare e praticare le lotte ambientaliste ed ecologiste a Roma, che come voi sicuramente sapete, come entro via Massima, è sempre un po' difficile portare in una grande città queste lotte, quando magari invece in centri più piccoli c'è un contatto più diretto spesso con il territorio, e quindi è anche più immediato coinvolgere i cittadini su certi temi. Qua a Roma facciamo un po' più fatica, però speriamo che questo, cioè l'idea è che questo spazio dia forza e concretezza a queste lotte nella città. Ma infatti speriamo, tra l'altro uno dei momenti, insomma, dei muri su cui ci stiamo scontrando pure noi, dopo aver anche parlato tante volte del riscaldamento globale, i rapporti dell'IPCC, dato tanto dell'evidenza di quello che sta accadendo a livello globale, più la decostruzione della narrazione opposta, no? Quella de, appunto, contro cui anche quella stessa di Cingolani, così ci siamo arrivati al punto in cui vabbè, ma che fanno le comunità? Cosa fai, fai dalla base, visto che le esperienze singole sono complesse, come è complesso valutare l'impatto, no? E allora c'era bisogno, secondo me, c'è bisogno, al di là della formazione, di continuare a parlare, anche di sviluppare le strategie. Quindi in questo, quello che hai detto, la laboratoria servirà a tutti quanti per cercare di fare un saltino nella riflessione. Ci siamo, abbiamo fatto un'assemblea noi qua, diciamo, di redazione della radio, proprio intorno a questo tema. Vabbè, abbiamo detto, dimostriamo continuamente l'esistenza e la necessità di un cambio di passo, ma poi qual è la proposta? È difficile articolarla, no? Soprattutto esatto, su alcuni temi, e soprattutto, vabbè, in ambito urbano non ne parliamo, no? Stiamo sempre sulle, anche un'iniziativa grossa ti pone, come quella di ieri, ti pone di fronte a certi aspetti difficili di gestione, anche dal punto di vista, no, della stessa ottica, certo, di conservazione, di non eccesso, insomma è complicato, ieri me ne sono accorto. E vabbè, quindi meno male, speriamo bene. Volete dire qualcosa? Quindi niente, Simona, che ci vuoi dire di più? Dici che non è cosa, una cosa che non hai detto in tutta questa settimana a nessuno. No, beh, sì, non l'ho detta, perché non l'ho detta ancora, non l'abbiamo ancora esplicitata neanche in assemblea, però l'idea, così diamo pure un mezzo appuntamento, appunto, di questi incontri domenicali tematici, è dedicare il prossimo all'acqua, proprio perché il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, quindi il 20 marzo dedicare la domenica di Berta al tema dell'acqua, e appunto dell'acqua bene comune, e anche degli ultimi sviluppi su questo aspetto, anche perché Berta Cáceres, appunto, donna indigena che ha lottato proprio per la difesa dei fiumi del suo territorio, insomma, ci sembra assolutamente perfetto dedicare alla giornata mondiale dell'acqua la prossima domenica. Benissimo, e ci saremo ovviamente, tra l'altro in qualche modo ultra fricchettone nel caso nostro, però è raddoppiato, veniamo dall'acqua, siamo già, nel senso, anche dai movimenti, dal movimento per l'acqua, quindi in questo senso quella roba, siamo tutto acqua, e nel nostro caso è più valida ancora, no? E quindi vabbè, niente, e allora rimandiamo a tutti quanti all'appuntamento, i canali per raggiungervi, sì, oltre quelli fisici, di venire lì, state su Facebook, la laboratoria. Allora, sì, siamo su, allora c'è un canale Telegram dove arrivano tutti gli aggiornamenti, che è Lea Berta Cáceres, che invitiamo sia a Telegram o di, insomma, iscriversi, perché è il modo più semplice sia per ricevere gli aggiornamenti, ma anche per capire come contribuire, perché lì girano appelli su cose che possono servire, e quindi magari chi passa è felice di dare una mano anche in questo modo. E c'è una pagina Facebook, devo dire un po' problematica, perché Facebook in questo momento, certo, sta mettendo un po' dei paletti, e quindi non sempre riusciamo ad aggiornare, e c'è un profilo Instagram, e sempre lei è Berta Cáceres, e c'è un blog, bertacaceresnoblog.org. Bene, questi sono i canali più, Telegram e il blog sono i canali più accessibili, dove uno non rischia di non leggere cose che uno può, esatto, fare. Va bene, esatto, va bene. E allora niente, grazie. Grazie a voi. Evviva Verde, evviva i pini, respira, lì sei, è bellissimo. Chiunque non ci è andato all'ascolto, cerchi di andarci se può, perché è un posto, sempre qualcuno, passate quando volete. È un posto meraviglioso dal punto di vista, da tutti i punti di vista, e quindi bisogna praticarlo. Va bene. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Baci, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Like an ocean. seems like I come to you. Don't say no, did it taste so? Don't say I know you. Fuck off the old world, the old girl. Fuck off the old world. Fuck off the old world, the old girl. Fuck off the old world. Stavo dicendo che al margine del discorso che abbiamo fatto finora, secondo me ci sono altri due fattori che dovremmo cominciare a studiare. Il primo è: per quale motivo le grandi industrie del fossile, quindi il gruppo delle transnazionali che si occupano del petrolio, del gas, eccetera, eccetera, hanno pensato che proprio in questo momento potevano, diciamo, guadagnarci il più possibile, speculare il massimo possibile, avere il massimo di grado di libertà per la speculazione? La prima risposta è: il sistema sta cercando disperatamente di dire che l'epidemia è finita e che l'economia in generale è in ripresa. Con ogni probabilità non è ancora vero, perché sta già risalendo, eccetera. E però ci stanno provando. Quindi questo sarebbe un motivo per questo meccanismo. L'altro è ancora più complicato, però lo metto sul tavolo e poi ci cominciamo a pensare. A livello della realtà, non delle chiacchiere a livello internazionale, quindi a livello delle conoscenze della realtà, queste imprese del fossile sono coscienti che il 71% dell'inquinamento e del riscaldamento globale dipende dal loro petrolio, cioè dal fatto che loro vendono e guadagnano sul petrolio? Loro lo sanno molto meglio dei governi. Allora hanno probabilmente la sensazione che in quest'anno, cioè da agosto scorso fino a 15 giorni fa, il meccanismo dell'inquinamento ambientale sta accelerando, e quindi che si sta restringendo il tempo nel quale queste imprese saranno libere di fare le speculazioni, eccetera, eccetera. Cioè ci sarà la necessità a livello governativo di intervenire, non a chiacchiere sull'ambiente, ma modificando strutturalmente i meccanismi di danno ambientale. E in tempi, se sono vere, diciamo, le mie sensazioni, cioè c'è una serie di dati, perché questi fenomeni tipo ambientale derivanti dal riscaldamento stanno accelerando e si stanno intensificando. Intensificando significa sono più densi. E negli Stati Uniti ci stanno 1200 tornado all'anno. l'ultimo di questi tornado quest'estate ha distrutto due cittadini nel Kentucky, cioè non in una periferia africana sperduta, nel cuore degli Stati Uniti. Allora, se queste cose si continuano a produrre nei prossimi mesi, anni, cosa diciamo estremamente probabile, poi io spero sempre di sbagliare perché sono delle previsioni drammatiche, però tutti i dati che ho a disposizione mi dicono che la situazione sta peggiorando in termini accelerati. Allora, se uno aggiunge a questo tutte le pubblicità che fa l'ENI, in cui fa vedere che si occupa di altre 100 cose oltre a usare il petrolio e vendere il petrolio, è come fosse una preparazione a un periodo molto drammatico in cui queste imprese saranno dai governi, ma da tutti i governi tutti insieme, messe in condizione di non utilizzare più il petrolio. Allora, è un discorso molto complesso, ovviamente, no? Perché è proprio quello strutturale di tempi. Però se l'anno prossimo, cioè l'estate prossimo, avremo tutto il mese d'agosto con 48 gradi in Calabria, non più in Sicilia, in Calabria, cioè in salita, noi saremo nei guai. Allora, questo teniamolo presente, perché io non faccio uccello del malaugurio, sto solo dicendo che i dati mi dicono che stiamo andando in quella direzione. Io spero sempre di sbagliare, però so 2 anni che le previsioni vanno nella stessa direzione. Ecco, allora, questo sarebbe molto preoccupante, perché ovviamente perché i $140 a barile eccetera non si sono mai visti in passato a questi livelli, se non in periodi bellici eccetera eccetera. Allora dobbiamo chiederci anche, cioè porsi anche in questa prospettiva, ripeto, è da studiare, da discutere, non ho la sicurezza assoluta di quello che sto dicendo, però potrebbe essere una spiegazione. Diciamo che almeno abbiamo messo sul tavolo una spiegazione, e questo ci serve a ragionare in questo periodo in cui è così difficile ragionare. Commentavamo proprio poco fa che chi prova a dire qualcosa di diverso da quello che è il dettato dei media mainstream viene tacciato di ogni nefandezza. Anche Demosthenes Floros è stato vittima di qualcosa del genere, perché è invitato a trasmissioni che si occupano in televisione di questi argomenti, ha avuto uno spazio minimo di 2 minuti a fronte di un viaggio che si è sobbarcato da Bologna, ci raccontava, con tanto di rimborso spese per tutto. Quindi è un periodo in cui ragionare è difficile, ci danno anche dei terapeutisti, ho scoperto stasera, e quindi in qualche modo stanno mescolando insieme tanti argomenti tipici della pandemia con tanti attuali, e c'è grande confusione sotto il cielo. Quindi ben vengano insomma le riflessioni che uno prova a fare, di sicuro quella di un anticipo sulla speculazione che non potrò più fare dopo,